Le parole hanno il loro significato e per questo ce ne serviamo proprio per indicare e distinguere cose e situazioni. Ciò è tanto vero che in certi momenti persino i sinonimi non sono efficaci. Dire «io abito in una casa» e dire invece «io abito in un fabbricato» non esprime lo stesso concetto. Per quanto fabbricato sia sinonimo di casa, spesso una parola è talmente precisa nel suo significato che difficilmente può essere sostituita con un sinonimo. È anche vero però alcune parole appartenenti al nostro linguaggio sono talmente sfruttate al punto da arrivare a perdere l'unicità e il valore del proprio reale significato. Una di queste è il sostantivo moglie. È vero che il termine in greco da dove deriva questa parola è il nome comune dato a qualsiasi essere femminile in opposizione a quello maschile, con la valenza tanto di moglie quanto di fidanzata, ma noi lo considereremo alla luce della nostra lingua e del nostro costume. Noi parliamo di un'amica, di una sorella, di un amante, di una serva, di una geisha, di una sposa, di una moglie. Ogni parola esprime una relazione diversa e particolare. Una sorella è una donna nata dagli stessi genitori e con la quale si hanno dei legami di parentela e di sentimenti familiari. Quando diciamo di avere un'amica, subito pensiamo ad un rapporto di scambio amichevole, di vedute, di confidenze, di hobby. Una serva è una donna di servizio con la quale si ha una relazione di dipendenza. Se parliamo di un amante, subito la nostra mente pensa ad un rapporto basato soprattutto su di una relazione sessuale. Se ci riferiamo ad una geisha, la nostra mente ci riporta ad un rapporto di estremo servilismo di ogni genere, compreso quello sessuale. Una sposa, invece, è colei che è legata da un contratto con un uomo. E la moglie? Chi è una moglie? Cosa distingue una moglie da una serva, una sorella, un amante, un'amica o una geisha? Una simile domanda sembra molto strana. Come? Chi è una moglie? Ma tutti sappiamo chi è una moglie. Può darsi. Quando però ho posto questa domanda a varie spose, il loro viso si è abbuiato. Dopo una pausa mi hanno confidato che non ci avevano mai riflettuto. Erano contente di essere sposate, il loro matrimonio era normale con i suoi alti e bassi, ma non era mai passato loro per la testa di definire l'identità di una moglie. Alcune spose romantiche mi hanno risposto che la moglie è principalmente un'amica, ma con un'amica non si fa sesso. Altre mi hanno confidato che una moglie è colei che accudisce l'uomo, ma anche la serva accudisce l'uomo. Altre ancora hanno fatto il ragionamento che, alla fine, una moglie è come un amante. Ma con un amante non si condivide la quotidianità della vita. Infine, altre spose hanno spinto il ragionamento per dire che una moglie è simile ad una geisha, cioè colei che serve il marito in tutto, anche nel campo sessuale. Ma se una donna è una geisha, non è più moglie, perché la presenza di due termini presuppone l'esistenza di una differenza. Se la donna è una moglie, allora deve essere più di una geisha. Cosa distingue? Quindi una moglie da una donna che è amica, una serva, un amante che è strumento di piacere, una sposa, cioè colei che ha firmato un contratto di convivenza. Qualcosa ci deve essere, altrimenti la parola moglie non ha più significato e di conseguenza è meglio toglierla dal vocabolario. E come la parola signorina? Poiché tale termine presuppone una ragazza non sposata e vergine, e dato che le ragazze spesso non arrivino vergini al matrimonio, qualcuno ha pensato di togliere questo sostantivo e chiamare tutte le donne signora. Visto che le persone non riescono ad adeguarsi ai termini, dobbiamo cambiare i termini o toglierli dal linguaggio corrente. Chi è dunque una moglie? Per prima cosa dobbiamo dire che essere moglie non significa necessariamente non avere le caratteristiche di una sorella, di un'amica, di una serva, di un amante, di una geisha, di una sposa, tutt'altro. Così si è espresso C.S. Lewis nel suo libricino, dedicato alla moglie morta di cancro, il cui titolo italiano è Diario di un dolore. Una buona moglie racchiude in sé tante persone. Che cosa non era H? Per me era mia figlia e mia madre, mia allieva, mia maestra, mia suddita e mia sovrana, e sempre, a mantenere tutte queste cose in soluzione, mio sodale, mio amico, mio camerata, mio compagno fidato, mia amante, ma al tempo stesso tutto ciò che qualsiasi amico uomo e ne ho di eccellenti è stato ed è per me. Forse di più. Se non ci fossimo innamorati saremmo rimasti ugualmente insieme per sempre. Scandalizzando tutti, Salomone chiama la sua sposa sorella. Potrebbe una donna essere pienamente moglie se all'uomo, per un attimo, in uno stato d'animo particolare, non venisse quasi da chiamarla fratello? Quindi anche per uno scrittore dall'elevatezza di pensiero come Lewis, per essere tale la moglie, riveste di volta in volta tali caratteristiche. Ma deve esserci, e sottolineo deve esserci, una caratteristica unica che non hanno la sorella, l'amica, la serva, l'amante e tutte le caratteristiche valutate da Lewis. Diversamente, la donna non può essere definita specificatamente moglie. Ecco, allora che molte donne invitate a definire chi sia una moglie rimangono spiazzate, pensando di essere mogli solo per il fatto che accudiscono il marito, perché lo servono in tutto anche nel campo sessuale. Soprattutto sessuale. Infatti la maggioranza delle spose si sente moglie solo per il fatto che fa sesso con il marito. Uso con insistenza il termine sesso in quanto diverso da amore. E perché? Lo fa solo con lui. Ma, ripeto, si può fare sesso con qualsiasi donna senza che necessariamente essa sia una moglie. Lo dimostrano due conviventi, perciò due persone che esercitino la sessualità. Non necessariamente sono marito e moglie. Lo dimostrano gli omosessuali. Se poi certe spose pensano di essere mogli perché fanno sesso per amore, cioè perché lo vuole il marito, o perché provino dei forti sentimenti verso di lui, dobbiamo allora dire che l'amante le batte 10-0. Dobbiamo quindi comprendere quale sia la peculiarità della moglie, questa esclusiva caratteristica, atta a renderla diversa dalle altre donne. Una moglie è colei che partecipa, in tutto e per tutto, alla vita del proprio uomo. E quella donna che è accanto all'uomo che ha scelto meno, come si dice meno, nella cattiva e buona sorte. Poiché questa prima conclusione non è nuova, né scioccante, bisogna approfondire il ragionamento. Una moglie è quella donna che vuole costruire, e costruisce con il suo uomo. È quella che desidera capire e capirsi, relazionandosi in profondità con il marito, allo scopo di crescere con lui. È quella che ascolta veramente e che prende sul serio le parole del suo compagno. È colei che segue il marito in tutti gli angoli e recessi della sua vita e dei suoi sentimenti. È quella che si intromette, con dolcezza e saggezza, in ogni aspetto dell'essere del suo uomo, allo scopo di fargli del bene e non per esercitare un controllo su di lui. Una moglie non ha più una sua vita e non concepisce più alcuna distinzione fra mio e tuo, ma vive con la concezione del noi. Sì, lei vive il tutto al plurale, pensa al plurale, e agisce al plurale. Quando il marito è onorato, lei si sente onorata. Quando il suo uomo è umiliato, lei si sente umiliata. Se non ha questo atteggiamento, lei non vive come una moglie anche se è sposata, ma potrà essere una serva, un'amica, un amante, una geisha. Una moglie non è come un amante, che ha raggiunto solo l'unione di due corpi. E la relazione sessuale sarà per lei il risultato di un cammino fatto insieme, naturalmente composto di gioie e dolori partecipati e di pensieri costruiti nel contesto del noi. Essere una sola carne non ha solo il significato di due corpi che hanno un'unica esperienza, si tratta di qualcosa che va ben oltre. Perciò non vi sarà più il mio e il tuo corpo, ma il nostro corpo. L'uomo e la donna restano sì due anime separate, ma hanno talmente costruito al plurale da essere fuse emotivamente, da vivere il noi in tutte le situazioni, al punto da non saper discernere, come nel sesso, ciò che è proprio da ciò che appartiene al coniuge. Una moglie non cerca di essere estranea al marito, ma sarà trasparente e tenderà a quell'unità assoluta che è la legge divina del matrimonio. Una moglie non è solo colei che accudisce il marito, perché questo lo può fare anche una serva, una geisha, Lei, dopo aver accudito il marito, dedicherà anche il suo tempo per approfondire il rapporto a due, affinché questo diventi uno. Una moglie accetta coraggiosamente la realtà, accetta il proprio coniuge così com'è, senza perseguire un sogno irrealizzabile e senza voler modellare il marito secondo il ritratto immaginario che abita nella sua mente. Una moglie è colei che è contenta che il marito sia diverso. Leggiamo nella parola di Dio: due valgono meglio di uno solo, perché hanno una buona ricompensa per la loro fatica. Se infatti cadono, l'uno rialza l'altro, ma guai a chi è solo e cade, perché non ha nessun altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme, si possono riscaldare. Ma uno solo come farà a riscaldarsi? Se uno può sopraffare chi è solo, due gli possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Ecclesiaste 4, 9-12. Essere sposati è meglio che essere soli. Ancora una volta dobbiamo comprendere il senso delle parole. Da un punto di vista non è vero, perché porta via tanta libertà e crea tanta sofferenza, perciò il matrimonio non sembra meglio del celibato. Ma la scrittura vuol dire che due sposi hanno tanti vantaggi, potendo aiutarsi efficacemente l'un l'altro. Ma solo, e sottolineo solo, se essi vivono come marito e moglie. Come deve essere una moglie? Se uno cade, l'altro lo rialza. Una moglie non resta indifferente a ciò che capita al marito, non lo liquida se questo attraversa una difficoltà, affermando, spietatamente e con indifferenza, che ciò che lo turba è un problema suo. Non vive con distacco di fronte a ciò che succede al suo uomo, ma è partecipe e compartecipe della sua sofferenza e del suo problema. Perché il problema non è più soltanto del marito, ma il loro. Da notare che la scrittura dice: se uno cade. Questo presuppone la possibilità che il marito compia anche un errore nei confronti della sposa, arrecandole un danno o una sofferenza. Tale situazione non sarà per la moglie il momento per vendicarsi di eventuali torti precedentemente subiti, ma consolerà il marito anche se il comportamento tenuto da quest'ultimo le abbia recato sofferenza e le abbia fatto soffrire torti ed ingiustizie. Gesù disse: se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Matteo 5,46. Per consolare non ci è bisogno di dire grandi cose. Basta ascoltare e cercare di capire. Basta essere presenti, vicini tanto fisicamente quanto con il cuore e la mente. Non solo. Una moglie non si limita a questo, ma rialza anche il marito. E questo perché quando il marito è rialzato, anche lei è rialzata. Se il marito è nell'errore, anche lei si sente nell'errore. Sublime è l'episodio narrato nella Bibbia di una moglie di nome Abigail. Il marito, Nabal, che significa stolto meno, compie un errore che costa la vita a tutta la famiglia. La donna corre incontro a Davide, che voleva fare vendetta del torto subito a causa della durezza di Nabal, dicendo immediatamente: la colpa è mia. In realtà la colpa non era sua, ma lei si sentiva partecipe dell'errore di suo marito. Se avesse detto a Davide che l'errore era di suo marito, forse avrebbe salvato solo la sua vita, ma non si sarebbe comportata come chi vive accanto e condivide tutto con il suo uomo. La parola di Dio si riferisce molto alla moglie. Già in Genesi 2:24 leggiamo: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Il termine moglie nella Bibbia viene usato nel senso di sposa, di colei che si è unita in matrimonio con un uomo. Ecco come viene considerata una sposa in Proverbi 18:22 e 19:14. Chi ha trovato moglie ha trovato una buona cosa e ha ottenuto un favore dall'Eterno. Casa e ricchezze sono l'eredità dei padri, ma una moglie assennata viene dall'Eterno. Non è bene per qualsiasi essere umano essere solo perché ha bisogno di comunione, di un partner, di un vero incontro. Ecco perché una sposa è un bene preziosissimo. Se poi la sposa è anche assennata, è un bene inestimabile che l'uomo non può procurarsi. Ecco, dare un dono che solo Dio può dare. Il nostro studio tiene certamente presente questo aspetto, Ma poiché non è sufficiente essere sposati per essere marito e moglie, nel senso che stiamo trattando, cerchiamo altri elementi per vedere il comportamento di una donna che voglia definirsi moglie. Le risse della moglie sono come un gocciolare incessante. Proverbi 19:13. E meglio abitare sull'angolo di un tetto che in una casa condivisa con una moglie litigiosa. Proverbi 25:24. Vi è un aspetto alquanto negativo, per quanto inconsapevole, abbastanza comune alle mogli, l'esser litigiose. I sinonimi di tale termine sono polemica, piantagrane. Abbiamo detto che non sempre i sinonimi sono validi, ma chi è polemico e piantagrane è senz'altro litigioso. Una donna litigiosa non è necessariamente carente di virtù. Anzi, spesso, proprio perché è virtuosa, una moglie può essere polemica. Sfugge a molte spose che nel capitolo 31 dei Proverbi, in cui si elogia la moglie ideale, il marito sia rispettato da tutti proprio a causa dei pregi della propria compagna. Proverbi 31:23. Essere una moglie, oltre a condividere con il marito ogni cosa, significa anche fare in modo che il marito non venga disprezzato. Purtroppo brave spose timorose di Dio vengono meno in questo. Disprezzano il marito ad ogni occasione, sottolineano i suoi difetti veri o presunti, come se ne avessero in cambio una ricompensa. Eppure, volendo ironizzare, sono proprio questi difetti ad aver fatto sì che lui la scegliesse come sposa, perché senza difetti molto probabilmente avrebbe scelto un'altra donna. Una simile donna litigiosa costringe il marito ad evadere la casa, a cercare qualsiasi posto pur di non restare sotto il tetto coniugale per non scivolare sempre in aspre discussioni. Proprio per questo, una sposa vedendosi abbandonata in modo palese, o con scuse apparentemente plausibili meno, come impegni di lavoro o di altro genere, meno dovrebbe riflettere su se stessa. Non voglio ovviamente sostenere che sia sempre così, perché vi sono uomini che sono proprio dei Nabal, cioè degli insopportabili stolti, ma posso testimoniare d'aver conosciuto vari mariti che non riescono a stare in casa con una moglie che è sempre negativa e brontolona. Con una simile donna nessun uomo può convivere, pur vergognandosi di confessarlo. Se qualcuno gli chiede ragione dell'assenza del tetto coniugale, parla di incompatibilità di carattere, ma in realtà, come si può tacere ciò di cui si va fieri, così si tace anche ciò di cui ci si vergogna. Vi è un ultimo aspetto, ancora più delicato, ma molto frequente in un matrimonio. Scrive il dottor Paul Tournier in un libricino dal titolo, in italiano, Comprendersi fra coniugi. Una moglie che parla con sicurezza di ogni argomento e di come bisogna fare e non fare, dà a suo marito l'impressione di essere da lei considerato un incapace, e questo nessun marito lo sopporta. A prima vista, una simile affermazione mette in ridicolo l'uomo perché lo si vede complessato. A volte, purtroppo, è così. Vi sono uomini che si sentono tali solo schiacciando moralmente e a volte, purtroppo, anche fisicamente la propria sposa. Ma lo psicologo vuole mettere qui in evidenza che una moglie deve essere sì d'aiuto al marito, ma senza prevaricarne il ruolo. E un po' come il rapporto tra datore di lavoro e operaio. È vero che in un rapporto di lavoro le persone non possano essere paragonate ad una coppia, ma la tipologia del rapporto può esserlo. All'uomo è dato d'essere il capo della donna, e aggiungo purtroppo, visto che a lui spetta la responsabilità dell'andamento del matrimonio. Di conseguenza, essendo parte subalterna, la donna è chiamata, come l'operaio, nei confronti del datore di lavoro, a rivolgersi verso il marito con le dovute maniere. Se poi qualche sposa ritiene tale riflessione assurda e antiquata, continui a fare il contrario e consideri i frutti che ne ricava. Per non essere frainteso, è evidente che ciò che si è detto della moglie è valevole, con un'ottica maschile, anche per il marito. Ma poiché il nostro tema è rivolto specificatamente alla moglie, continuiamo a prendere atto chi è una moglie. La parola di Dio, come abbiamo detto, parla molto della moglie, ma spesso dal versante maschile. Leggiamo due brani. Bevi l'acqua della tua cisterna e l'acqua corrente del tuo pozzo. Dovrebbero le tue fonti spargersi al di fuori come ruscelli d'acqua per le strade, siano per te solo e non per gli estranei insieme a te. Sia benedetta la tua fonte e rallegrati con la sposa della tua gioventù. Cerva amabile e gazzella graziosa, le sue mammelle ti soddisfino in ogni tempo e sii continuamente rapito nel suo amore. Proverbi 3, 15-19. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della tua vita di vanità, che egli ti ha concesso sotto il sole per tutti i giorni della tua vanità, perché questa è la tua parte nella vita e nella fatica che compi sotto il sole. Ecclesiaste 9, 9. È vero. Ciò che abbiamo letto è rivolto principalmente all'uomo, ma poiché Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, ed essendo lui colui che ha disposto i ruoli della moglie e del marito, una sposa che riesce a far comprendere d'essere una moglie al proprio marito ha ottenuto lo scopo della vita. Come per un marito, l'obiettivo deve essere quello di far comprendere alla sposa di essere amata. Così la moglie, con il suo comportamento, deve arrivare al cuore dell'uomo scelto come compagno, per fargli comprendere che lo ama come moglie. Se conoscete qualcosa di meglio, dopo un vero incontro con Gesù Cristo, sono curioso di saperlo. Tellero.